Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto nuovamente il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di lavoro e ahimè di una cosa che purtroppo da qualche parte capita. Mi vengono in mente per esempio alcuni servizi delle Iene che ho visto di fantomatici studi di moda che ti dicono: sì, tu vieni a fare il modello da noi, dovrai pagare un tot, noi ti istruiamo bene e poi ti garantiamo il lavoro. Poi una volta fatto scucire 2-3 mila euro, questi il lavoro non glielo daranno mai e si tengono i soldi. Queste sono cattive abitudini, diciamo, che capitano in giro. Ho fatto un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. Di che cosa andiamo a parlare? Guarda Francesco, il tuo esempio cade a pennello, perché prima di parlare dell'argomento di oggi io vorrei portare un altro paio di esempi di cui l'Adico ogni giorno combatte, perché capitano frequentemente e sempre più, purtroppo, in maniera anche più articolata, ed è solo questi, diciamo, corsi di cui molte persone si iscrivono, pagano fior di migliaia di euro con la promessa di trovare un lavoro poi, e immancabilmente invece le persone pagano e si trovano disoccupate, o addirittura le agenzie immobiliari, che anche qui delle persone si iscrivono con di quelle speranze che alla fine poi vengono disattese, e con quei retroscena che magari approfondiremo su una puntata dedicata. Però in questo caso parliamo proprio di persone che è un, anche se è un fenomeno tipico del sud, ma siamo convinti che anche a nord sta assumendo una rilevante dimensione, costrette a pagare per poter lavorare, cioè persone che magari percepiscono uno stipendio ma devono dedicare una parte di questo al proprio datore di lavoro, pena non lavorare. Quindi certamente in un periodo di crisi non possiamo certamente sottovalutare questo fenomeno, perché noi riteniamo che sia tipico del sud. Ecco, quindi fammi capire, magari c'è un datore di lavoro che fa un contratto regolare per un lavoro determinato e però dice: ok, io ti do in busta paga 1200 euro, ma di questi 1200, 300 me li devi restituire. Sì, allora normalmente questo tipo di accordi prevedono che tra l'azienda e il lavoratore ci sia un taglio del 30% dello stipendio in busta paga il primo anno di lavoro, del 20% il secondo anno, il 15% del terzo, con la minaccia poi del licenziamento per scarso rendimento per quelli che rivendicano il salario pieno. Certamente un fenomeno che di fatto è una vera e propria truffa, ma di cui molte persone, a detta da quanto stiamo anche noi leggendo, subiscono in silenzio, non si ribellano, perché il rischio di perdere un posto di lavoro a volte non giustifica il rischio di denunciare queste cose, ma che normalmente accade di venirne a conoscenza solamente poi quando la persona non ha più un rapporto con questo datore di lavoro, e allora porta alla luce un po' quello che ha dovuto subire. E ricordiamo che in questo caso si parla proprio di truffe, perché se è vero che oggi ne conosciamo di tutto, come uso improprio di partita IVA, contratti a progetto, part time più fuori busta che in busta, fino al classico lavoro nero, in questo caso però parliamo di vera e propria estorsione, e certamente l'invito è quello di denunciare questi atteggiamenti, questi comportamenti, però ci rendiamo conto anche della difficoltà di chi li sta subendo di mettere a rischio un po' il proprio posto di lavoro. Ecco, contestualmente mi immagino si fa firmare il contratto regolare, ma anche già quella che è la lettera di licenziamento in bianco, no? Penso che sia una delle cose che sono più facili. Guarda Francesco, c'è di tutto, anche questo. Normalmente poi nel caso che stiamo adesso spiegando, poi la truffa è anche articolata bene, perché se il datore di lavoro ti fa il bonifico in banca, poi si aspetta da te una restituzione di una parte del denaro in contante, quindi è anche un po' difficile da dimostrare. Però bisogna anche sapere che questa truffa può essere un rischio per tutti e due, anche per il lavoratore, perché poi capita che magari il lavoratore che versa più contributi paga più tasse, si trova magari un indomani in cassa integrazione, quindi beneficiare di un assegno di sostegno maggiore rispetto a quello che sarebbe le reali spettanze sulle cifre ricevute. In questo caso anche il datore di lavoro compartecipa a una frode e quindi diventa una truffa nella truffa, per cui sai, tanti aspetti che magari di per sé ognuno accetta nella disperazione e nella necessità di dover lavorare, ma che poi non valuta in quelle che sono un po' tutte le sfaccettature che questa vicenda ha, perché poi succede che, come tutti i matrimoni, quando non vanno a buon fine, no, ognuno si vendica, però vendicarsi anche in certe situazioni, come quando magari si percepisce o si è percepito un indennizzo o una cassa integrazione o qualcosa, diventa, si compartecipa proprio alla truffa. Ecco, qual è il consiglio che possiamo dare se uno è preso con l'acqua alla gola? Accetta di solito. Certamente, Francesco, qua consigli bisognerebbe veramente appellarsi un po' a quello che è rispetto alle regole e al coraggio di ciascuno di noi a denunciare queste situazioni, però capisco anche le persone che così facendo mettono un po' a repentaglio il proprio posto di lavoro. Ripeto, noi magari qua al nord questa situazione per mentalità, per offerta della domanda, siamo anche più propensi a denunciarla, però in certe realtà come il sud, dove oltre il 50% dei giovani sono disoccupati, posso capire che si fatica di più a ribaltare quello che è un sistema che magari poi si trascina da generazioni. Certo è che se non cominciamo a fare qualcosa sarà sempre più difficile, soprattutto adesso che c'è questa crisi, permettere a chi insomma fa il furbo di cambiare un attimino atteggiamento. Certo, noi da parte nostra lanciamo insieme all'Adico questa segnalazione, speriamo insomma che poi con qualche legge, con qualche garanzia per il lavoratore, piuttosto che insomma si possa ovviamente cancellare questo sistema che non deve esistere. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il sito che potete visitare anche per eventuali segnalazioni richieste, con tutti i numeri di telefono per contattare l'Adico. Grazie, alla prossima settimana. Grazie a te, Francesco, e alla prossima settimana. Un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.